Se quel sogno maledetto mi svegliasse senza te, se l'amico più sincero mi parlasse un po' di te, se mi dicesse che tu ti prendi gioco di me, io non ci crederei, brucerei i sogni miei. Se mi dicesse che io non vedo niente per Dio, io mi risveglierei, soffrirei e ti odierei. Se quel giorno mi svegliassi e tu non fossi qui con me, se quell'uomo ti stringesse come non ti ho stretto mai, allora dico di no e con la forza che ho io non ti cercherei, griderei e me ne andrei. E poi ti giuro che mai nessun dolore saprai, forse mi ammalerò, ci morirò e non saprai mai che l'amore è grande e immenso, tu me l'hai buttato via. Che c'è un uomo che ti ama e odia quasi alla follia, allora dico di no e con la forza che ho io non ti cercherei, griderei e me ne andrei. E poi ti giuro che mai nessun dolore saprai, forse mi ammalerò, ci morirò e non saprai.